Buonasera a tutti, io sono Gaetano Uzzi, vengo da Catania, che come sapete è una terra abbastanza che trema, anzi La terra trema è un film di Luchino Visconti, se non sbaglio, su acidrezza. Io mi volevo riallacciare un po' alla sua riflessione rispetto al locale che in qualche modo viene a, come dire, bloccare quelle che sono poi magari le individualità sia umane che architettoniche, no? E quindi non lasciano spazio a quella che è la libera espressione. Io non credo che in una situazione di catastrofe, dove appunto la reazione che la gente ha è quella di restare sospesa in una specie di limbo senza spesso saper reagire, perché e che aspetta che gli altri gli danno aiuto, no? Questa è la sensazione che si prova. Però per esempio io, se vediamo noi all'esperienza che è lontana ormai del terremoto della Val di Noto, no? Che distrusse tutto, tutti i tessuti urbani che allora esistevano, ma che portò a un grande movimento architettonico che è il barocco siciliano, no? E che ha dato l'impronta a tutta la zona sudorientale della Sicilia, a partire da Cireale, a scendere fino a Noto, fino a Ragusa, eccetera, e che ha determinato, credo, uno dei più bei capolavori dell'architettura degli ultimi secoli, no? Che ancora oggi presentano dei centri storici belli, diciamo, interrelati col tessuto sociale. Per cui voglio dire, queste cose possono servire anche se vogliamo riqualificare. Nel caso dell'Aquila, io credo che, tu dicevi, è una scelta politica la vostra, ma è una scelta politica assolutamente pazzesca quella di Berlusconi e di chi lo segue nelle sue esternazioni da andropausa, no? Cioè, tutte le esperienze che ci sono state dei terremoti, prendiamo nell'ultimo secolo, no? Friuli, cose eccetera, lo stesso Belice, o tu ricostruisci il tessuto connettivo di un territorio, di una città colpita proprio nella sua indole profonda, oppure deporti le persone, cioè crei campi di concentramento. Quindi non si può assolutamente, cioè ora voglio dire, io mi ricordo l'indomani del terremoto, Bruno Vespa ansimante correva, girava quell'Aquila deserta che faceva paura. E a un certo punto, non mi ricordo quale ministro, disse che in un paesino la protezione civile ancora era già arrivata, poi lui in diretta non era arrivata. Questo come un pazzo faceva e si incavolò, si incazzò con il ministro, vogliamo sapere eccetera. Però questo stronzo di Bruno Vespa non ha mai detto che l'Aquila doveva intanto rinascere lì dov'era, perché se non crei la cucitura di quel tessuto sociale, anima non ne rimane più, non rimane più niente. Cioè quella è una città morta e che purtroppo probabilmente resterà tale. Quindi è importante in questi casi, cioè, lavorare in questo senso. Cioè, non possiamo farci le pippe intellettuali sulle new town eccetera, a parte che dove le hanno fatte sono completamente fallite, voglio dire. Oppure se prendiamo anche alcuni aspetti del movimento moderno che ha creato periferie, ha creato il quartiere di Palermo, come si chiama, lo Zen, lo stesso librino di Catania, se vogliamo, anche se oggi ci sono delle esperienze, per esempio una interessante è quella che fa Antonio Presti, quello di di Fiumara d'Arte, eccetera, che sta cercando di costruire un tessuto partendo proprio delle relazioni, partendo dai ragazzi delle scuole, eccetera. Quindi se ci sono queste esperienze che in qualche modo mettono insieme e attivano l'identità delle persone, cercano di interrelazionarli, eccetera, questo è il lavoro che bisogna fare. Lì, per esempio, nell'esperienza dello Sri Lanka, forse c'era un'eccessiva, come dire, considerazione degli aspetti religiosi, eccetera, che probabilmente sono determinanti, eccetera. Però tutto sommato, cioè, andavano nella direzione giusta, quello di ridare alle persone, partendo dalla propria identità. Lì sono etnie, quindi si parte dall'identità delle etnie. Noi, a parte la Lega e i leghisti, cerchiamo in qualche modo, come dire, anche se stiamo un po' perdendo il senso dei rapporti, come si dice, dell'integrazione, no? Per colpa di questi altri pazzi che, insomma, ormai con quelli si ragiona solo di elementi di razzismo puro e con elementi di pazzia, a mio avviso. Per cui, cioè, in questi casi, per esempio, l'esempio che tu dicevi dell'architetto giapponese, che giustamente, cioè, se io lo vedo come dicevi tu, no? Come l'espressione di individualità progettuali, ma che poi danno anche un senso compiuto a un'opera architettonica rispetto a chi la deve usufruire, quelli la prendevano a male, perché in fondo quello ha costruito vedendo solo il suo modo di interpretare la costruzione, no? Non vedendo invece chi poi ci doveva andare a stare, no? È un po' l'esperienza dello Zen. Gregotti, quando l'ha progettato, avrà pensato cioè avrà dato lui un suo senso, una sua possibilità di relazione. La realtà poi ha dimostrato che invece lì non si potevano creare relazioni, ma si è creato solamente degrado. Quindi bisogna stare attenti anche quando poi si progetta a questo tipo di errori, perché quello che dici tu, cioè se è l'individuo che si costruisce anche in un ambito di, se vogliamo, di centro storico. Io una volta ad Edimburgo ho visto nella strada principale che porta poi nel castello, c'era una specie di arco e si vedeva poi un edificio nuovo che era molto bello, era all'interno del tessuto storico della città, ma era una struttura architettonica nuova, moderna, e a me è piaciuto, diciamo. Quindi questo tipo di cose sono espressioni che comunque si devono fare, perché noi non dobbiamo guardare solo al passato. Il passato ci dobbiamo guardare proprio per guardare al futuro, e questo ci serve sia nell'architettura sia nella, ma anche in altre cose. Io domani condurrò un dibattito sulla pesca, nel primo dibattito che c'è nel pomeriggio alle 5, dove lì, per esempio, l'esperienza che presenterò della mia cooperativa, della piccola pesca, è un'esperienza che deve assolutamente guardare al passato per bloccare un certo tipo di futuro, e questo vale un po' dappertutto. Vi ringrazio. Grazie mille.